I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Il voto rappresenta un fattore di incertezza economica. Attenzione però, non stiamo parlando del dibattito tutto italiano sul referendum del prossimo 4 dicembre, bensì dell'indicazione che è arrivata ieri in serata dalla Banca Centrale Americana sullo stato di salute dell'economia a stelle e strisce. Il rapporto si chiama Beige Book ed è un rapporto che viene redatto dalle 12 sedi della Banca Centrale Americana presenti sul territorio statunitense. È un rapporto molto importante perché dà il polso dell'andamento distretto per distretto dell'economia statunitense ed è un rapporto che conferma come comunque si stia espandendo l'economia americana e come le prospettive dell'economia statunitense siano per la maggior parte positive, con una crescita economica però modesta o moderata. Ma perché è particolarmente dedicato al rapporto diffuso ieri? Beh, perché è l'ultimo prima delle elezioni, della sfida Trump-Clinton, al di là del giudizio che oggi i media americani daranno sullo scontro, sull'ultimo scontro televisivo e del distacco che sembra sempre più strutturarsi da parte di Hillary Clinton. E soprattutto il rapporto di ieri sera è importante perché sulla base di quel rapporto che la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, si riunirà tra il primo e il 2 di novembre, ossia una settimana esatta dal voto americano. Difficile che rialzi i tassi una settimana prima, ma sicuramente terrà conto di quanto hanno raccontato ieri i 12 governatori locali della Federal Reserve. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Almeno per ora i mercati finanziari possono stare tranquilli. L'orientamento della Banca Centrale Europea è quello di estendere, probabilmente anche oltre marzo 2017, il programma straordinario di liquidità a favore delle banche e del sistema finanziario, il famoso programma di quantitative easing che ha spinto le borse verso i record e soprattutto ha stabilizzato i mercati finanziari dopo la grande paura della crisi del credito e della crisi di fiducia. Ma che cosa succederà? Su questo punto Draghi non è stato molto chiaro, si è limitato a dire che la Banca Centrale Europea è pronta ad andare oltre marzo sul programma degli acquisti, un programma che, come è noto, costa tra gli 80 e i 100 miliardi di euro al mese al sistema Europa. Il problema della BCE è sempre lo stesso, cercare di spingere l'inflazione verso l'alto, cercare di aiutare la crescita, pur in assenza di politiche di sviluppo da parte dei governi, e soprattutto dare il segnale che la Banca Centrale Europea ancora c'è, malgrado le lacune che ancora caratterizzano il dibattito politico europeo. Certo, questo lavoro non potrà andare avanti in eterno, prima o poi dovrà finire il QE e dovranno ritornare in campo i governi con delle vere politiche economiche e politiche industriali che puntano non soltanto alla crescita ma soprattutto all'occupazione, visto che proprio il problema del lavoro resta il più grande d'Europa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.